Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. I capelli grigi, l'assenza di trucco, gli abiti comodi e sobri restituivano ad un'occhiata distratta l'impressione di una donna ordinaria, avanti negli anni, quasi invisibile, proprio come desiderava essere. In principio questo stile era dettato da un'esigenza quasi ideologica. Sara nutriva una profonda avversione per ogni forma di menzogna e non aveva mai tollerato la falsità. Sara è uno dei personaggi seriali creati dalla penna di Maurizio De Giovanni insieme, per esempio, lo ricordo, il commissario Ricciardi. Nel 2019 è uscito appunto l'ultimo romanzo di questa serie, poi ci sono I bastardi di Pizzo Falcone, ma anche la recente Mina Settembre. Sara è stata già protagonista di Sara al tramonto e Le parole di Sara, e ora è in libreria con Una lettera per Sara, scritta appunto da Maurizio De Giovanni, pubblicato da Rizzoli. Sara è una donna appunto di una certa età e in pensione, ma in passato aveva lavorato in una unità speciale dei servizi segreti. Qui lo dico perché insomma è qualcosa che è emerso già negli altri romanzi ed è un po' la premessa alle storie che lei deve affrontare. Si era innamorata del capo Massimiliano, per il quale addirittura aveva abbandonato suo figlio, però insomma la vita di Sara è segnata dal dolore, perché Massimiliano muore di malattia, muore purtroppo anche il figlio che lei aveva abbandonato e le rimane sostanzialmente solo il nipotino, il figlio di suo figlio, avuto dalla compagna Viola, che viene chiamato anche lui Massimiliano. Quindi insomma sostanzialmente Sara fa anche la nonna. Ecco Maurizio, il tuo personaggio femminile Sara ha una grande capacità dal punto di vista professionale, sia nel momento in cui lavorava appunto nei servizi, sia ora che è in pensione e comunque finisce per indagare. Lei ha una grandissima empatia, si affida a molti sensi proprio per intuire le cose. Che caratteristiche ha Sara? Sara è innanzitutto una donna che lotta da sempre, per natura e per talento e per lavoro, contro la menzogna. È il motivo per cui ha uno stile così dimesso: non si tinge i capelli, non si trucca, non usa scarpe col tacco, perché alzare la propria statura reale, mascherare il proprio volto per sembrare più giovane e cambiare anche il colore dei propri capelli sono alterazioni della verità. Lei ha lavorato per 30 anni in un'unità dei servizi che si occupava di intercettazioni ambientali, quindi per molti anni ha interpretato le espressioni del volto, i movimenti del corpo, secondo quella che è una scienza che esiste, è quella su cui si basa il mentalismo, no? Cioè quella dell'interpretazione delle espressioni e anche del linguaggio non verbale, che la portava a scoprire la verità dietro la bugia, dietro la menzogna. Quindi direi che il tratto fisico, il tratto morale, il tratto etico di Sara siano perfettamente corrispondenti. L'universo umano di Sara è costellato da vari personaggi. Abbiamo visto, c'è Viola, appunto la compagna del figlio che era morto sostanzialmente, il nipotino, il piccolo Massimiliano, e poi c'è anche l'amico poliziotto Davide Pardo. E sarà Davide Pardo in questo caso a trascinarla in un caso, perché un giorno Pardo viene avvicinato a sua volta da un ex collega che sostanzialmente gli dice: fammi incontrare una persona, tale Antonino Lombardo, che è in carcere e in fin di vita perché ha qualcosa di importante da dirmi. Ora, senza entrare naturalmente nei dettagli, perché non possiamo svelare quasi nulla di questo romanzo, ecco, in che modo Sara si trova ad essere coinvolta in questo strano caso che poi si intreccia a sua volta con un caso degli anni 90? Ma in realtà tutta la narrazione è basata su Sara, della serie di Sara, è basata sul fatto che il passato non finisce in realtà. Noi archiviamo il passato sulla base di un'apparenza, dell'idea che ne abbiamo noi. Ma in realtà il passato può essere rivoluzionato, può essere reinterpretato, può essere cambiato sulla base di alcuni eventi che vengono a galla successivamente. È quello che succede stavolta, c'è una sparizione di una ragazza. Questa sparizione di questa ragazza sembra assolutamente che arriva a Sara attraverso Pardo in maniera assolutamente sembra distinta dalla vita di Sara, invece mette in discussione in maniera indiretta il passato di Sara. E l'interpretazione di certi sentimenti, di certe emozioni e di certe persone che hanno orientato tutta la sua vita. Questo è un effetto farfalla, è un butterfly effect, che in effetti succede sempre. Non c'è nulla che avvenga nella nostra società, nella nostra vita, che non incida sugli altri, che non arrivi agli altri. E questo succede anche per una banalità del male. Perché il male è sempre banale, purtroppo, che è avvenuto tanti anni fa e che si riflette, si riverbera necessariamente sulla vita attuale delle persone. Ecco, io non voglio scendere troppo nei dettagli di questo romanzo, ma qualche elemento possiamo darlo. Possiamo dire, perché lo si capisce, insomma, dalle prime pagine del romanzo, che questo nome, Antonino Lombardo, quest'uomo che è 67enne, un ex cancelliere del tribunale, ora in carcere, purtroppo anche lui in fin di vita è un malato terminale che aveva chiesto di incontrare questo poliziotto Fusco che a sua volta chiede appunto l'aiuto di Davide Pardo. Questo nome Antonino Lombardo fa un po' sobbalzare Sara, perché Sara, che ha questa capacità anche di leggere le labbra delle persone, ricorda che il suo Massimiliano, il capo dei servizi segreti di questa unità speciale, un giorno aveva pronunciato questo nome, ma non le aveva mai raccontato nulla e non esiste alcun dossier a carico di questo Antonino Lombardo. Ecco, che cosa provoca in Sara questa idea, questa sensazione che forse ci potrebbero essere anche delle ombre sul suo Massimiliano? Ma questo evento che incide su Sara smuove la sua memoria. E nella sua memoria, lei, prima ancora di avere la sua relazione con Massimiliano, lei ricorda questo incontro e soprattutto ricorda l'espressione del volto di Massimiliano durante questo incontro. Un'espressione che lei riesce a interpretare alla luce del suo talento e delle sue competenze immediatamente, ma che non è congruente con l'idea che lei ha del suo uomo e con quello che il suo uomo le ha detto successivamente. Soprattutto non quadra con l'assenza di alcuni documenti nel famoso archivio di Massimiliano, che è un archivio che conserva maniacalmente quasi tutti gli eventi che sono entrati in contatto con l'attività professionale, quindi con l'attività dei servizi, negli ultimi 30 anni. Ecco, tornando invece al personaggio di Davide Pardo, l'amico poliziotto di Sara, che poi la coinvolge nello specifico in questo caso, lui, anche lui è un uomo solitario, è un uomo che avrebbe voluto sposarsi e avere dei figli, ma la vita è andata in modo diverso e si affeziona particolarmente al nipotino, di Sara, Massimiliano. Ha veramente un istinto materno, tu lo scrivi diverse volte nel romanzo, forse quasi più spiccato di quello della madre stessa, di Viola. No, più di tutti, Davide Pardo in realtà è il mio personaggio femminile della serie di Sara. È il portatore di quei valori che normalmente noi siamo portati ad annettere alle donne e che invece nella società contemporanea possono essere facilmente maschili, anzi, molto spesso sono maschili, che è quello di avere una famiglia, dei figli, una casa, di essere responsabili anche delle vite altrui. E purtroppo i tempi e i modi della vita di Pardo non gli hanno consentito questa cosa. Ha avuto delle relazioni importanti che non sono andate in questo senso, è rimasto solo e adesso davanti al bambino di Viola che nasce senza un padre, prende istintivamente questa responsabilità, molto più di quanto Viola stessa sia in grado di fare. E, essendo Viola una ragazza, avendo ancora delle ambizioni professionali da sola e avendo Viola una famiglia, una madre che è tutto tranne che la nonna ideale che uno vorrebbe vicino al nipotino, insomma, diciamo. E quindi niente, Pardo è così. Io credo che Pardo sia il personaggio che in questo romanzo abbia l'impulso di crescita maggiore, sinceramente, cioè quello che fa il maggior passo avanti, ecco, rispetto agli altri personaggi, perché ha anche stavolta lo spessore di essere, il tramite della notizia di questa sparizione su cui indagheranno tutti. Quindi è pure primariamente responsabile di questa storia. Grazie a Maurizio De Giovanni, ora in libreria con Una lettera per Sara, pubblicato da Rizzoli nella collana Nero Rizzoli. Grazie Maurizio. Grazie a te. E anche per questa puntata breve è tutto. Vi ricordo che normalmente il Cacciatore di Libri va in onda ogni sabato alle 6.30, alle 15.30 ed è sempre disponibile in podcast. Se volete potete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.